Bibbia Martini, primo libro dei Re 9. Il Signore apparisce per la seconda volta a Salomone, e gli ordina di osservare i suoi precetti, aggiungendo le minacce ove li trasgredisca. Salomone edifica molte città, e mandata la sua flotta a Ofir, ne ritrae moltissimo oro. Avendo dunque Salomone compiuta la fabbrica della casa del Signore, e del palazzo reale, e tutto quello che aveva intenzione, e bramosia di fare, gli apparve il Signore per la seconda volta, come gli era apparito a Gabaon. E il Signore disse a lui: Io ho esaudita la tua orazione, e le suppliche, che tu hai fatte dinanzi a me, ho santificata questa casa edificata da te, affinché la porti in sempiterno il mio nome, e gli occhi miei, e il mio cuore saranno fissi su questo luogo in ogni tempo. E parimente se tu camminerai dinanzi a me, come camminò il padre tuo, con cuor semplice, e retto, e farai tutto quello, che io ti ho comandato, e osserverai le mie leggi, e i miei comandamenti, io stabilirò il trono del tuo regno sopra Israele in eterno conforme promisi a Davide tuo padre, dicendogli, non mancherà di tua stirpe chi segga sul trono d'Israele. Ma se mai vi ritirerete voi, e i vostri figliuoli dal seguir me, e dall'osservanza dei miei precetti, e delle cerimonie, che io vi ho ordinate, anzi anderete dietro agli dei stranieri, e loro renderete culto, e li adorerete, io svellerò Israele di sopra la terra datagli da me, e il tempio, cui io consagrai al mio nome, lo rigetterò dal mio cospetto, e sarà Israele lo scherno, e la favola di tutte le genti. E questa casa sarà un esempio. Chiunque le passerà davanti rimarrà stupefatto, e darà in esclamazioni, e dirà, per qual motivo ha egli il Signore trattato in tal guisa questo paese? E questa casa? E sarà loro risposto perché hanno abbandonato il Signore Dio loro, il quale trasse i padri loro dalla terra d'Egitto, e sono andati dietro agli dei stranieri, e li hanno adorati e serviti. Per questo il Signore ha mandato sciagure tali sopra di essi. Passati di poi 20 anni, nei quali Salomone edificò due case, cioè la casa del Signore, e la casa del re, allora diede Salomone ad Iram 20 città nel paese della Galilea. E Iram partì da Tiro, per vedere le città dategli da Salomone, e non gli piacquero, e disse, sonelleno queste le città, che tu, o fratello, mi hai date? E pose loro il nome di terra di Shabul, come pur oggi si dice. Iram aveva ancora mandato al re Salomone 120 talenti d'oro. Tanto spese il re Salomone nella fabbrica della casa del Signore, e della casa sua, e di Mello, e nelle mura di Gerusalemme, e di Eser, e di Mageddo, e di Gazer. Faraone re d'Egitto andò di assedio di Gazer, e la prese, e la diede alle fiamme, e distrusse i cananei, che abitavano la città, e la dette per dote alla sua figliuola moglie di Salomone. Salomone adunque riedificò Gazer, e Betoron inferiore, e Balat, e Palmira nel deserto, e tutti i borghi, che appartenevano a lui, ed eran senza muraglie, e li fortificò, e le città dei cocchi, e le città dei soldati a cavallo, e tutto quel che a lui piacque di fabbricare a Gerusalemme, e sul Libano, e in tutto il paese di suo dominio. Di tutta la gente, che era rimasa degli Amorrei, e degli Atei, e dei Ferezei, e degli Evei, e degli Ebusei, i quali non erano del numero dei figliuoli d'Israele, i figliuoli di questi, che erano rimasti nel paese, perché i figliuoli di Israele non avevano potuto sterminarli. Salomone li fece tributari, come sono anche in oggi. Ma dei figliuoli di Israele Salomone non comportò che alcuno servisse, ma essi erano destinati alla guerra, e ministri di lui, e principi, e capitani, e comandanti di cocchi, e di cavalli. Ora a tutti i lavori di Salomone soprintendevano 550 capi, i quali dirigevano la moltitudine che era ad essi subordinata. E avevano ispezione sopra i lavori che erano loro assegnati. Or la figliuola di Faraone passò dalla città di Davide alla sua casa fabbricatale da Salomone. Egli allora edificò Mello. Salomone ancora offeriva 3 volte l'anno degli olocausti e delle vittime pacifiche sopra l'altare eretto da lui al Signore, e bruciava i profumi dinanzi al Signore. E il tempio fu condotto alla sua perfezione. Fece ancora il re Salomone un'armata navale in Asiongaber, che è vicino ad Elat sul lido del Mare Rosso, nell'Idumea. E Hiram mandò su quell'annata un numero dei suoi servi intelligenti nella nautica, e pratichi del mare insieme co' servi di Salomone, i quali essendo andati a Ofir, portarono al re Salomone 420 talenti d'oro, che indi ritrassero. Note 9,2, gli apparve il Signore e la notte stessa dopo la dedicazione del Tempio e dopo l'orazione fatta da Salomone, il Signore gli apparve, come gli era apparito in Gabaon, cioè la notte in sogno, capitolo 3, 5. Ciò essendo, si potrebbe tradurre il Signore gli era apparito. Eci perché non paia l'apparizione differita fin dopo il compimento dato alla fabbrica del Palazzo Reale e di tutte le altre sue fabbriche. 9,7. E il Tempio. Lo rigetterò eci Dio prevedeva che gli ebrei troppo carnali avrebbero posto una gran fidanza nel Tempio, l'unico che avesse il vero Dio sulla terra, Tempio, in cui aveva dati segni tanto visibili di sua bontà. Gli avverte qui adunque a non presumere di tal privilegio in maniera che, trascurando la vera pietà e la sincerità dei costumi, abbiano a meritarsi che lo stesso Tempio si appelle loro iniquità rigettato da lui e abbandonato alla desolazione. Vedi Jerem. 7, 4. Le minacce di Dio ebbero purtroppo l'effetto, e più volte. 9,10. Passati 20 anni. 7 anni e mezzo durò la fabbrica del Tempio, 12 e mezzo furono spesi nelle altre fabbriche. 9,11. Diede Salomone ad Hiram 20 città. Queste città erano nella Galilea, presso alla tribù di Aser e intorno ad Aksib e a Tolemaida. Salomone diede ad Hiram queste città in ricompensa degli operai mandati a servire nelle fabbriche, e anche delle somme di denaro mandategli dallo stesso Hiram. Accusano alcuni Salomone per aver ceduto a un principe straniero e infedele una porzione dell'eredità del Signore contro la proibizione della legge, Levit. 25-23. Ma rispondesi, che il paese di Shabul non pare che fosse compreso dentro i limiti della terra destinata da Dio alla stirpe di Abramo. Anzi, il contrario rilevasi da Giosuè 19-27, onde credesi che quel paese fosse conquistato da Salomone e fosse abitato da idolatri, i quali per gli accidenti della guerra fossero dispersi in gran parte, o menati in schiavitù, lo che apparisce ancora da Paralipomeni, Lib 2, capitolo 8, 2, dove si dice che queste città rifiutate da Hiram, Salomone le ristorò, e vi mandò colonie di israeliti. 9,13, terra di Shabul. Giuseppe Ebreo dice che in lingua dei fenici questo vuol dire terra spiacente. Non è certa la significazione di questa voce nell'ebreo. 9,15. Tanto spese il re Salomone e ci vale a dire tanto furon grandi le spese fatte da Salomone nelle fabbriche qui accennato, che in esse consumò non solo le infinite sue ricchezze, ma anche 120 talenti di oro mandatigli da Hiram. E Mello era la valle che Davide intraprese di colmare, 2. Regione V. 9. E Salomone terminò quest'opera. Sembra che almeno una parte del palazzo della figliuola di Salomone fosse ivi fabbricato. 9,10. Andò all'assedio di Gazer. Giosuè aveva presa questa città. Ios X. 33. 12. 12. I cananei l'avevano ripigliata, e l'avevano tenuta fino a questo tempo. 9,18, e Palmira nel deserto. Questa città fu fabbricata in quel luogo da Salomone, perché ivi solamente si trovano acque, essendo arido tutto il paese all'intorno. Palmira diventò molto celebre nei tempi delle guerre tra Romani e i Parti, e i disegni delle rovine, che si vengono di presente, dati fuori pochi anni sono dai viaggiatori inglesi, sono manifesta prova di sua grandezza. Vedi Plin, Lib. 25, 9,10, e tutti i borghi. L'ebreo, le città dei tesori, ovvero dei magazzini, lo che può intendersi dei magazzini di grano, vino, olio, particolarmente quelli che erano verso le frontiere del regno. Le città dei cocchi, dove stavano i cocchi in tempo di pace. E lo stesso delle città dei cavalli. E sul Libano. Sul Libano Salomone fabbricò una fortezza, di cui vedeva anzi le rovine a tempi di Gabriele Sionita 9,22. Dei figliuoli d'Israele non comportò che alcuno servisse. Vale a dire non impiegò per un israelita nelle tante fabbriche che egli intraprese. Vedi 2. Paral. 8, 9. Egli si servì di 153.000 uomini, che erano rimasi della nazione accennate nel versetto precedente. 9,25. Offeriva tre volte l'anno per la Pasqua, per la Pentecoste e per la festa dei tabernacoli, nei quali tempi la legge ordinava che tutti i maschi si presentassero dinanzi al Signore. Egli oltre a ciò aveva cura che si offerissero i sacrifici ordinari di ogni giorno e dei sabati e dei novilunii, e somministrava le vittime, vedi 2. Paral. 8, vers. 13xxxi. 3, 9,26. In Asion Gaber. Questa città è collocata da migliori interpreti nel fondo del Golfo Elanitico ad oriente di Elat sul Mare Rosso. 9,28. Ar of. Sopra questo paese popolato già dai discendenti di Ofir figlioio di Jecta molte dispute sono tra gli interpreti. Giuseppe ebreo mette Jectan co suoi figliuoli nel paese dal fiume Cofene fino all'Indo, e al paese de Seri. E la dovrebbe cercarsi il paese di Ofir secondo questa opinione, la quale è stata tenuta da molti, essendo cosa notissima, che tutti i paesi dell'Indi sono ricchi di oro. Un autore moderno mette Ofir nell'istmo, che è tra il Ponto Eussino e il Mar Caspio. Vedi Calmet, Dissert. Intorno al paese di Ofir. 420 talenti d'oro. Nei Paralipemeni si ha la somma di 450 talenti, ma può essere che qui si dia la semina del valore del puro oro, e nei Paralipomeni la somma del valere e dell'oro e delle altre cose portate dall'armata navale di Salomone, in perché ella non portò solamente oro, ma anche altre rarità. Vedi capitolo 10.